Madre strana, faccia di dea sospesa, sopra la mia casa di latte, tu tenero rifugio, ti ho mangiata. Tutto ciò di cui avevo bisogno era di consumarti come un pranzo. Ciò che mi davi lo ricordo in un sogno, le braccia lentiginose che mi avvolgevano, la risata da qualche parte sul mio cappello di lana, le dita che maledette mi allacciavano le scarpe, le poppe penzoloni come due pipistrelli che si lanciavano contro di me rovesciandomi giù. Le tette che ho conosciuto a mezzanotte si infrangono come il mare in me adesso. Madre, mi sono messa delle api nella bocca per evitare di mangiare, ma ciò non ti ha fatto del bene. Alla fine hanno tagliato via le poppe e il latte si è riversato fuori sulla mano del chirurgo che le strinse a sé. Io gliele presi, le piantai. Ho messo un lucchetto su di te, madre, caro essere umano morto. Così le tue grandi campane, questi cari bianchi pony, possono andarsene galoppando, galoppando, dovunque tu sia.